l'amor, viva l'amor, viva l'amor, per chi sa va, viva l'amor, che vien che va, viva l'amor, viva l'amor, viva l'amor, per chi lo sa fa. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sul traguardo Nico Rosberg a prendersi la 21ª vittoria in carriera, a vincere per la prima volta il Gran Premio d'Italia nella sua carriera, a rilanciarsi nel mondiale. Meno 2 da Lewis Hamilton, che affronta adesso la parabolica, sta per arrivare sul traguardo per chiudere questa doppietta Mercedes, e tra poco alziamo volume, sentiamo come verrà accolta la terza posizione per Sebastian Vettel, che transita adesso sul traguardo. A Ferrari abbiamo i migliori tifosi di mondo, grazie a tutti, grazie per venire, grazie. Chiarisco un concetto, io ho sempre fatto un abbinamento al passato, no? All'europeo, cioè, da oggi non voglio più parlare di quello europeo, oggi inizia una nuova strada con alcuni stessi giocatori ma con altre persone, quindi da questo momento io non vado a fare paragoni, non vado a cercare di copiare, non faccio assolutamente niente di tutto questo. Maverick, c'è il vuoto dietro di te, tutti in piedi sul divano per Maverick Vinales. Vinales c'è e vince il Gran Premio di Inghilterra, produce la sua prima vittoria in MotoGP, produce la prima vittoria della Suzuki della nuova era. Per me è stato molto difficile, perché dalla primo giro ho provato a spingere, quindi ho mantenuto sempre lo stesso passo, e veramente difficile farcela hasta la fine, no? Senza commettere nessun errore. Tra recentissimo passato, cioè le gare di ieri, doppietta Mercedes, la prima vittoria di Vinales, terzo posto di Valentino Rossi, la nuova battaglia con Marquez eccetera, e un futuro ormai dietro l'angolo, cioè la partita di questa sera dell'Italia contro Israele. Riprendiamo il cammino di tutti i convocati con Pierluigi Pardo, che per l'occasione è qui. Beh, come va? Come va? Siamo al top. Tutto bene? Molto bene. Poi non ci siamo mai fermati, quindi. No, però, insomma, diciamo, c'è questa ufficialità, questo 5 mettiamo, settembre. Mettiamo questo timbro insieme a Giorgio De Luca. De Luca si è messo, voi non lo vedete perché è radio, si è messo la giacca, la cravatta, perché comunque oggi è il 5 settembre, quindi è il giorno in cui si ricomincia, e ci teneva, insomma, a essere in ordine. Anche Gianmarco Ferronato in regia, già che Ferronato, anche per lui. Però più, è sempre molto più scapigliato Ferronato, perché comunque, insomma, conosce la tecnologia. Ragazzo tecnologico. Sai perché questa canzone, al di là di I Want It All, I Want It Now, a parte il fatto che è un pezzo storico e meraviglioso, sai perché? Perché oggi ho 70 anni, avrebbe compiuto 70 anni Freddie Mercury. Invece, dopo i primi due trailers del campionato, inizia un altro gioco in cui vorremmo tutto, vorremmo un altro premio, un altro regalo, cioè il mondiale per la Russia in un girone che sembra un po' una matriosca. Dove sì. Forse la Spagna contiene tutte le altre, la seconda dovrebbe essere l'Italia, poi l'Albania, però i colori delle bamboline potrebbero cambiare. Tanto bisogna vincere in Israele. Bisogna vincere in Israele, è chiaro che non ci arriviamo nelle condizioni migliori, almeno dal punto di vista psicologico, perché comunque Ventura ha ragione, cioè c'è uno scetticismo nei suoi confronti che forse è anche un po' eccessivo. Io l'altro giorno ho raccontato, perché ero testimone dei fatti, seguendo quell'europeo, il clima che c'era attorno a Donadoni nel 2008, poi Donadoni abbiamo visto che ha perso ai rigori contro la Spagna, che da quel momento in poi avrebbe vinto tutto, eppure sembrava un fesso, detto in amicizia, no? Se leggendo alcuni articoli di quei giorni dei giornali, e secondo me fu trattato male. E qui secondo me risiamo lo stesso tipo di situazione, nel senso che Ventura è certamente un signore del calcio italiano, un uomo di campo come ce ne sono pochi. È chiaro che non ha il palmarès di Conte o l'allure di Conte, di Ancelotti o di Guardiola, però insomma adesso bisogna dargli un po' di fiducia. Se cominciamo su ogni scelta e su ogni decisione a fargli la guerra, secondo me non gli facciamo bene. Poi giusto dire che anch'io Berardi l'avrei convocato, tanto per essere chiari, però insomma aspetterei un attimo, aspetterei soprattutto le partite ufficiali, e quindi in fondo non bisogna nemmeno aspettare tanto. Ecco. Gli amichevoli non sono il nostro forte, ma spesso anche i gironcini di qualificazione non sono una specialità italiana. Di questo parleremo ovviamente nel corso del programma anche con voi, 800 24 00 24, convocati sempre e comunque, anche con gli sms 349 238 6666, valgono anche, numero che vale anche per i WhatsApp, se volete mandarci WhatsApp vocali potete farlo, che ci divertiamo un mondo. E che altro, ti sei divertito a Monza ieri? Ma ieri non sono andato, sono andato sabato, però l'ho vista la gara. Ma insomma, è sempre, io non sai, non è che sono proprio un appassionato totale di motori. Ho avuto la possibilità di seguire una parte delle prove del box Mercedes con, devo dire, un livello di goduria, di libido. Chiaramente, cioè, neanche non si se possono... è andato nell'ultima della fila, proprio una cosa incredibile. C'era Niki Lauda, non ho potuto fare foto per ovvi motivi. Insomma, che lì magari c'è una foto, deve fare un bullone, ti prendi vincono il pugno, perché te c'è questo bullone. Eviterei, però, insomma, al di là ovviamente dell'enorme affetto per la Ferrari, che comunque ha fatto una prestazione molto, molto buona, mi sembra che il mondiale sia scritto a livello ovviamente di costruttori, e ci sia invece questa grande sfida fra questi due piloti. Ho intervistato Hamilton l'altro giorno e devo dire che mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto, perché mi è sembrato uno che non vuole essere simpatico a tutti i costi, cioè mi è sembrato uno che però le cose è abbastanza odioso, però no, guarda, secondo me no, ci sono stati due o tre passaggi in un'intervista durata un quarto d'ora, ne vedrete un pezzo anche durante Tiki Taka lunedì prossimo, due o tre passaggi secondo me non banali da persona, no, da persona che ha delle idee precise, super, sì, cioè, poi era già a 20 anni quando è arrivato in Formula 1 e pronti lì ha vinto subito il mondiale. Comunque, poi parliamo di tutto questo, intanto ci fermiamo, primo time out, viabilità, e torniamo subito. Tutti convocati qui, altro che ciupiti di Bobo Viel. Convocati. Contro la Francia era un'amichevole di lusso, importante. Quella di domani è una partita in cui non conta tanto la bellezza, ma conta molto di più il risultato. Storicamente magari nelle amichevoli non brilliamo o non siamo particolarmente efficaci, nelle partite che contano come quelle di domani dobbiamo trovare sicuramente gli ingredienti giusti, le caratteristiche giuste per affrontare la gara e fare gara come sappiamo noi e come la vogliamo interpretare. Torniamo dunque a parlare di nazionale, Pierluigi Pardo, con gli ascoltatori che convochiamo. Volentieri. Immediatamente 800 24 00 24. Non è cambiato il numero? No, sempre quello. Sempre il gingolino uguale. Invece la voce del jingle è cambiata. Intanto ci diamo una rinfrescatina, se no che stiamo a fare? Mettiamo le canzoni dei Nina Pizzi. No, è bella tra l'altro. Con questa, tutto rispetto per Nina Pizzi, che era credo l'autrice preferita di Massimo Mauro, no? Sì. Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene. Vacanze, che hai fatto? Vacanze abbiamo finito, ma il mio paesino sta lì con le granite, tutto a posto. E adesso grande golf stamattina? Adesso lunedì facciamo la nostra pro-am. È vero. Con Del Piero, con Ned, con Vialli, con tutti, soprattutto i golfisti del tour europeo, tra cui ci sono due Ryder Cup, Gabriele Abello e Sullivan, che vengono alla nostra gara. Bello, bellissimo. Stamattina è stato presentato l'Open d'Italia, che poi sarà da giovedì a domenica a Monza. Va bene. Comunque l'ho detto a Vialli. Ma non mi avete chiamato per parlare di golf? No, però ho detto a Vialli che di quello che hai detto l'altra volta da noi, che tu avevi hai più talento e lui aveva i piedi di legno. Questo gliel'ho detto. Questo gliel'ho detto. È inconfutabile. Dato di fatto. Come la vedi la nazionale appena nata di Ventura, che poi è uguale a quella vecchia, giustamente, di Conte? Anche se Ventura rifiuta, ha già cominciato a tagliare il cordone ombelicale. Smettetela con Conte, questa è la mia Italia, sono cambiati gli uomini che poi sono sempre gli stessi, ha ammesso. Ovviamente e giustamente non è così, perché un po' come Allegri dovrà portare avanti la faccia di questa squadra almeno fino al 6 ottobre, quando affronteremo la Spagna, giusto? Sì, è un po' come Allegri, c'è Buffon che gli dà una mano, no? Perché dopo Sassuolo Buffon fece una sparata giusta, no? nei confronti dell'ambiente della squadra della Juve, e adesso sta dando una mano per cercare di capire al gruppo dove si trovano. Oggi è una partita dove si può fare la brutta figura, e Buffon ha detto bene dal punto di vista tattico, Ventura è un maestro, al contrario di Conte forse gli manca un po' di verve, non so come dire, no? Al Toro non ce n'era bisogno, perché il Toro tradizionalmente è una squadra, non ce ne dovrebbe essere bisogno neanche in nazionale, però può capitare. Dal punto di vista tecnico e tattico credo che Ventura sia un allenatore degno della nazionale italiana. Assolutamente. Sei d'accordo, Pierluigi? Ma assolutamente. Ma anche sul fatto di conservare la faccia di questa nazionale e di portare avanti un certo tipo di lavoro con questi giocatori. Assolutamente. È chiaro che... Mi piace Ventura a centrocampo, onestamente. L'unica cosa, diciamo, che poi non c'entra niente con la squadra di Conte, è Ventura accanto al centrale. A me in quel ruolo non piace. Secondo me, scusami, non Ventura. Berratti. No. Buonaventura. Buonaventura, okay. Scusami. Buonaventura. In quel ruolo lì non mi piace. Secondo me è un ottimo esterno, anche nel 3-5-2, a mio avviso. A centrocampo non mi piace. Io penso che sicuramente non sia facile raccogliere l'eredità di Conte, e soprattutto l'eredità di una squadra che ha fatto molto bene e che l'ha fatta con la cosa più contiana che esista, cioè con grinta, motivazione, senza dei valori tecnici straordinari, anche se poi scarsi non siamo, però rispetto a quell'Italia lì recupera un giocatore importantissimo come Verratti. Sappiamo che Candreva non è arrivato disponibile alla partita decisiva dell'Europeo, quindi questo è un recupero importante. Poi per il resto la struttura è quella. Io darei fiducia, aspetterei almeno stasera, ovviamente, perché mi sembra che il clima di scetticismo sia eccessivo e non sia supportato dai fatti, insomma. Poi se in un girone qui devi vincere subito, ho capito, se non girone qui, ma infatti, magari questo l'ho detto anche a Ventura quando stava per prendersi questa patata. È ovvio che non è facile, la nazionale, però sono d'accordo con Massimo, cioè è un profilo assolutamente all'altezza di un commissario tecnico di una nazionale, ma proprio senza se, senza ma. È chiaro che Conte nell'immaginario, che poi ricordiamoci che Conte pure ha avuto le sue critiche, nel senso che c'era anche durante le elezioni, la scelta da parte di Tavecchio 2 anni fa, c'era pure chi diceva che non era adatto. Pier, per Conte era pure più facile, perché un conto è preparare una squadra dal punto di vista emotivo e caratteriale per un europeo o un mondiale. Un conto è andare in giro per l'Europa e per il mondo a giocarsi la qualificazione, no? Questo è anche diverso, eh? Giocare contro Israele è diverso che giocare una partita all'Europeo per passare il turno. Quindi è ancora più difficile, secondo me, il lavoro di Ventura in questa fase. È molto complicato da questo punto di vista. Non c'è dubbio, c'è tutto da perdere e c'è pochissimo da guadagnare. Però, è un'opportunità per lui, secondo me, per impreziosire una carriera che è stata comunque già una carriera di alto livello. È chiaro che insomma, bisognerà riuscire a essere dei martelli un po' alla Conte. Gli attaccanti adeguati, diciamoci la verità. Ah, certo, tecnicamente, l'Italia in difesa è ottima, è fantastica. A centrocampo se la cava benissimo. Davanti è un punto interrogativo continuo. Sì, Massimo, però è un punto interrogativo continuo anche per questioni di modulo. Io e Pierluigi abbiamo discusso diverse volte. Allora, no. Non abbiamo il grande centravanti, e con un modulo di questo tipo comunque penalizzi l'Insigne di turno o il giocatore comunque può essere il Gavellini di turno. Ma quando fanno gol quelli? Il termometro è la Juventus dopo tantissimi anni non ha un attaccante italiano. La difficoltà del calcio italiano è questa qui oramai, Ventura ne paga le conseguenze, ne ha pagato le conseguenze Conte, è così, non abbiamo un attaccante degno di questo nome, perché quelli che hai nominato tu è gente che la porta quando si avvicina alla porta gli si rimpicciolisce. Diciamoci la verità, no, è, il nostro punto debole. Io però il discorso del modulo secondo me ha un senso, perché Insigne, per dirti, è uno che almeno momentaneamente è stato, diciamo, messo in disparte, perché lo sappiamo, questo modulo qui per lui non è l'ideale. Berardi, stesso discorso. Quindi è chiaro che la scelta del 3-5-2 è una scelta che ci sta, è una scelta che nasce dalla voglia di non stravolgere quello che si è visto con Conte, e nasce soprattutto dall'input dei difensori. I difensori sono la nostra eccellenza, il nostro grande punto di forza, preferiscono giocare in questa maniera e quindi si gioca in questa maniera. È la scelta che ha fatto Conte ed è la scelta che sta facendo anche Ventura. Però alla lunga, nel medio periodo, secondo me bisogna farsi una domanda, perché se questo tipo di scelta, cioè se per blindare la difesa dobbiamo rinunciare a quel talento non moltissimo in valori assoluti, ma comunque che c'è lì davanti, forse bisognerà fare una valutazione costi-benefici. A chi ti riferisci di talento? No, io dico Berardi, per stessa missione di Ventura, è un giocatore che con questo modulo è sacrificato. Insigne, grosso modo, stesso discorso, è lo stesso discorso che si è fatto anche durante l'Europeo, è un giocatore che probabilmente in termini di talento... Però per essere un attaccante di livello internazionale, tu devi fare la differenza in una grande squadra. Insigne non la fa nel Napoli, è bravissimo, ma non fa la differenza. Berardi si deve misurare, è bravissimo anche lui, ma si deve misurare ancora in una grande squadra. Ripartire al Sassuolo è diverso che giocare contro le difese schierate o alla Juve o a Manchester United o a Liverpool, cioè è diverso. No, ma io che non siano Pelé e Maradona, questo non mi perdoneranno, sono due amici, ma mi perdoneranno, lo sanno pure loro. Però che nella situazione complessiva del nostro calcio sono due che potrebbero essere con un altro modulo estremamente utili, credo che sia abbastanza logico, giocando 4-2-3-1, giocando 4-3-3. Noi abbiamo tanti esterni di qualità, di tutti i tipi, esterni offensivi, attaccanti con tanti gol nei piedi, appunto come Insigne, come Berardi, giocatori più di contenimento alla Florenzi, lo stesso Bonaventura, l'hai detto tu prima, Bernardeschi, abbiamo tanti esterni, abbiamo dei grandi difensori, abbiamo un solo vero, secondo me, fuori classe in regia, che è Verratti, con altri giocatori quando rientrerà Marchisio. Però abbiamo quel buco là davanti. Un'ultima cosa, Massimo. Verratti, per l'appunto, siamo tutti d'accordo nel dire che è il nostro giocatore di maggior talento, lasciamo stare i difensori. Però a 23 anni, per sfiga assortite, per scelte tecniche, eccetera, eccetera, nonostante sia stabilmente titolare di uno dei più grandi club europei, Paris Saint-Germain, in maglia azzurra abbiamo visto poco o pochissimo, cioè praticamente dobbiamo ancora scoprirlo. Però è quello che ha fatto vedere una grande squadra di avere la personalità di prenderla per mano e gestirla a grandi livelli, perché io ricordo la partita che ha fatto col Chelsea a Londra, certo. È una grande partita, quindi questo ragazzo ha dimostrato di avere gli attributi per essere determinante a grandi livelli. Io mi sarei arrabbiato se a 23 anni mi avessero detto che non ero buono a giocare nel 3-5-2 ma nel 4-4-2 oppure no, cioè è riduttivo, è una cosa brutta, non è positivo nei confronti di giocatori che si ritengono di grande talento e affermati, dire che per un sistema di gioco vanno bene e un altro no. Cioè, questo è ancora un problema per il nostro calcio. Io sono sicuro che Verratti può avere la nazionale italiana in mano, non sono certo che giocare con un sistema o un altro puoi mettere dei giocatori o altri. Cioè, questo credo che sia negativo. Sì. Grazie Massimo. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Veniamo a vederti giocare a golf contro Vialli. Arriviamo. Lunedì, fra l'altro, insomma, questo appuntamento tradizionale raccolgo un sacco di soldi, quindi ovviamente in beneficenza. Quindi magari lunedì torniamo a collegarci. Sì, volentieri. Rino. Eccomi qua. Buongiorno. Grazie della convocazione. Numero dei convocati è 800 24 00 24. Perfetto. Prego. Allora io innanzitutto chiamo da Pescara, quindi sono un fan di Verratti, quindi mi ricollego all'ultimo commento tecnico di Mauro, che giustamente ha fatto notare, e non è casuale, che è il giocatore italiano che ha la maggiore quotazione internazionale in questo momento, quindi evidentemente gli esperti lo ritengono in grado di fare la differenza. Io vorrei fare una sola osservazione. Noi Ventura, io chiaramente non mi azzardo di metterlo in discussione, perché è appena iniziato il suo lavoro, quindi sarebbe veramente prematuro. Volevo fare un'osservazione sul fatto che l'ultima volta è mancato Bonucci e ci siamo resi conto come certi movimenti lì in difesa, una difesa che ha dimostrato tutto il suo valore nell'ultimo europeo, se manca uno dei tre si creano problemi molto grossi. Sono stati amplificati anche dalla pessima serata di Chiellini. Cioè, è chiaro che il blocco difensivo, più che la linea difensiva più forte, è questa. Non credo però che siano totalmente insostituibili, no, Pierluigi? No. Bonucci è importantissimo, è fondamentale, ma non credo che sostituendo uno di questi tre giocatori crolli tutto quanto. No, anche se l'incidenza è grande, L'incidenza è grande, e io credo che questo riguarda ovviamente anche la Juve, perché la difesa è completamente bianconera. La tenuta in termini di età, quindi di resistenza al tempo che passa, di questi tre è una chiave fondamentale del successo della nazionale e dell'Italia e della Juve, perché sono giocatori meravigliosi che man mano ovviamente si devono proporre nella sfida col tempo, quindi certo. Questo è il punto interrogativo. Bonucci l'altro giorno non c'era, secondo me si è visto, al di là degli aspetti legati al fatto che era un amichevole, tutte le cose che ci raccontiamo da giorni. Stasera invece ci sarà, torniamo dopo la borsa. Tutti convocati, vado a giocare, ci vediamo dopo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ma guardate, le parliamo italiano! Siete i migliori del mondo, veramente, incredibile! Grazie mille! Troppo bello! Proviamolo! Nico Rosberg che fa il simpaticone, o il paraculo magari secondo qualcuno, sul podio di Monza. Ambedue le cose che non guasti. Infatti ieri ci guardavamo. È simpatico. Adesso però vedrai che parla italiano, dicevamo io e Giovanni Capuano. L'altra sera una serata Laureus, anche quella di beneficenza, dove lui è venuto, è stato carinissimo, disponibile, simpatico, parla un italiano, ma lo sapete meglio di me. Certo. Parlo italiano fantastico, sì, è stato anche un po' paraculo. Però sai, per Mercedes e per tutti gli altri venire a Monza sempre, no, giocare un po' fuori casa, devo dire, con un livello di fair play veramente meraviglioso. No. E poi c'è anche ovviamente la sensazione di trovarsi in un monumento dell'automobilismo mondiale, quindi credo che alla fine fosse sincero in tutto questo, però diciamo si è fatto prendere un po' così le corde vocali dal momento, diciamo, dal gioco aperitivo, da un po' prima da villaggio. Quanto tempo che non sentivo Leo Turrilli, cioè non è moltissimo, ma mi è mancato così tanto che mi sembra un'eternità. Ciao maestro Genta, voglio salutare subito Pardo che finalmente ha finito le ferie. No, veramente, c'ho ancora due o tre giorni. Molti mesi, no, si era sparsa questa voce che ti allenavi con Cassano e cercavo, Pardo, e allenarsi con Cassano, non si trova, ma io sono felice di ritrovarti invece adesso in diretta. Sì, come va? In grande forma. Come va? Ma eri a Monza? Certo, eri a Monza. Certo, io devo dire una cosa, che hanno vinto i ferraristi e ha perso la Ferrari. È molto semplice. Tu eri a Monza già ancora quando si faceva la parabolica e cioè vinceva Tazio Nuvolari, no? Mi ricordo quando si schiantò Stirling Moss negli anni 50, che si correva addirittura, pensate, una 200 miglia di Monza sulla falsariga di Indianapolis, proprio perché c'era la famosa parabolica. Poi potrei dirvi quello che mi raccontò Varzi quando scese dalla vettura negli anni 30, ma non voglio tediare tutti quelli che sono fermi su una Pero Cormano dove c'è una coda. Perché sì, purtroppo che c'è Alonso? Che c'è? No, è la multipla di Sergio Marchionne. Ma la multipla non era quella di due anni, ma adesso non era quella lui. Di Montezemolo, l'ha presa lui perché due anni che è presidente al posto dell'avvocato Colciuffo, due anni di grandi proclami, Ed eccoci qui, di fronte all'ennesima doppietta Mercedes. È difficile, state in coda sulla Piero Cormano e abbiate pazienza. L'anno prossimo saranno 10 stagioni senza titolo mondiale a Maranello. Perché ha già contato anche l'anno prossimo? Beh, se ce la si fa, è 2017, che il precedente con Kimi è datato 2007, quindi comunque saranno 10 anni. Sì. Non lo so, però dai, quello che stiamo vedendo da un punto di vista tecnico, perché ho detto prima, i ferraristi vincono, la Ferrari perde, purtroppo con il cuore non si vince, la famosa pubblicità di un tempo era ingannevole, nel senso che hanno un vantaggio, una supremazia. Questo weekend, se vogliamo essere proprio asciutti, razionali, è stato persino imbarazzante. Sì, un pochino sì. Anche perché c'era, scusate, ma non spero, c'era sta roba dei tre gettoni, no? Sì, ma sai, quindi, ecco, cioè, teoricamente... Monza per la Ferrari rappresenta da sempre una delle piste nelle quali, essendo tutto motore, certo, si adatta un po' meglio, no? Perché storicamente ha dei limiti di aerodinamica di telaio. Poi, come diceva giustamente Pardo, che ha studiato in vacanza di compiaccio, la Ferrari portava l'ultimo sviluppo della Power Unit, identificato dai tre gettoni previsti da questi regolamenti ostrogotici alla Formula 1. Non ci sono più le cabine al telefono con i gettoni, e ci sono i gettoni per i motori di Formula 1 da barzelletta. Quindi ci si aspettava di più, e invece tra il sabato e la domenica abbiamo visto che sono imprendibili. Sì. Vi faccio un esempio che penso proprio chiarisca il tutto, e non è troppo tecnico, non è complicato. Sabato, in qualifica, con la gomma più dura, Rosberg e Hamilton hanno dato un secondo alla Ferrari di Vettel e di Raikkonen, che usava la gomma più performante, la più nuova. Quindi questo vuol dire che il divario in termini complessivi, telaio, aerodinamica, prestazione di motore, è enorme. E guarda, dirò di più, forse l'entusiasmo della gente ieri alla fine era la dimostrazione della consapevolezza che il popolo ha, cioè hanno capito che più di così non si riesce a fare, no? E quindi, insomma, provano con l'entusiasmo a rendere plateale il senso di attesa che i ferraristi, non solo italiani, Leo, scusa, non per vantarmi, ma ero nel box Mercedes quando hanno fatto 1.21, che era 1.21.4? Quel giro lì, capito? No, ma posso dire ho parlato con Lewis, gli ho detto accelera. Lui mi ha guardato e ha accelerato. Cioè, no, ma io la motivazione è importante. Invece ho incontrato Niki Lauda, erano anche 40 anni del suo meraviglioso ritorno dopo il rogo del Nürburgring 1976, quello che è forse da un punto di vista emotivo il più grande gran premio di tutti i tempi. Ron Howard ci ha fatto anche il film Rush, certo, eccetera, e Lauda mi ha detto: sai che questo tuo collega Pardo ne capisce anche di Formula 1. E allora l'ho guardato, ho detto: ma ci sono persone nel mondo del calcio che capisce anche di Formula 1, avrebbero delle perplessità da formulare. Comunque, dico, guarda, veramente come un bambino alle giostre, perché ti siedi lì, vedi questi qui a 5 metri, è una roba pazzesca. No, ma guarda che adesso la Formula 1, intendiamoci, ieri se qualcuno ha visto il Gran Premio nella sua interezza, ha faticato a restare sveglio, poi sì, non è stato un granché, sorpassi, ma poi Monza, tu insegni, Leo, che Monza per la Ferrari è un po' come il derby di Roma per Roma e Lazio quando la Juventus è staccata, bravo, cioè vinci questa corsa, certo, risolvi un po' la stagione, qui le hai prese e poi hai fatto festa. Come diceva Pardo, effettivamente quando sei lì, anche se poi lo spettacolo in sé in gara è noioso, ma vedi da vicino queste macchine, questi dettagli, questi piloti, no? Perché questi a Monza nel parco fanno i 350 all'ora, dopo sembra tutto un giochino, PlayStation, no? Tutto facile, cioè, ma vanno a delle velocità chiusi in un'abitazione, cioè, è comunque come ai tempi miei di Nuvolari o di Varzi, un'emozione unica. Peccato che nelle ultime 52 gare, da quando la Formula 1 ha introdotto i motori ibridi, il turbo con i supporti elettrici, 45 volte hanno vinto gli amici di Pardo, cioè quelli della Mercedes. E faccio notare a chi ascolta Radio 24, fateci caso, Pardo salta sempre sul carro del vincitore. Mica ha detto stavo con Turrini al box della Ferrari. Ma se mi invitavi ci venivo, Ferrari. No, però mi hanno invitato. Mi sono divertito. Per una volta che il maestro Pardo parla di motori, in 5 minuti gli ho detto: ho fatto una serata bellissima con Rosberg qui e là ed ero ospite della Mercedes. Pardo, ma vieni anche da noi che si perde, vengo. Qual è il prossimo? Invitami. Portiamo il vecchio Rosso. Portiamo un bicchiere di Lambrusco, hai capito? Qualcosa. Sì, il prossimo è un po' fuori mano, eh. Dov'è? È dietro l'angolo, Singapore. Vengo. Notte di Singapore, però voi ricorderete certamente su testo di Roberto Vecchioni I Nuovi Angeli. Singapore, vi saluto, belle signore, vado a Singapore. Una hit strepitosa. Quasi a livello di ippopotami. Quasi. Ma guarda, quasi. Che Pardo ha una grandissima cultura. Ma sta sempre con i vincenti. Vengo a Maranello, invitami. Che devo fare? Quando vuoi. Sarà pure con noi. Allora, adesso prendiamo accordi. Hai visto lo spettacolo ieri? Si perde, ma col cuore ce la stiamo mettendo tutti. Il bandierone era bellissimo. Il bandierone era bellissimo. Tu preferisci però vincere. Ma io non è che preferisco di cuore, no? Fermiamoci per il traffico. Torniamo subito. Zizzania. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Vi aspettiamo a Made in Malca, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago 8-11 settembre. Vi presenta. Convocati. Dunque, Leo Turrini, tra poco ci facciamo dire da Pardo chi vince il mondiale, perché ha fatto due lunghe interviste con Hamilton e poi ha intervistato anche Rosberg. Non so dirti chi lo vince. Sono 150 148 e adesso lo chiediamo. Lo facciamo, lo domandiamo anche a Jarno Trulli. Cosa dici, Leo Turrini? Jarno è un carissimo amico e lo saluto con affetto, anche perché poi gli sono debitore di bottiglie di un vino suo straordinario. Vini Castorani, che cosa ci consigli? Ciao Jarno. Ciao a tutti, ciao Leo. Cosa promette questa stagione dal punto di vista vitivinicolo, naturalmente? Dovrebbe promettere bene, non diciamo benissimo, ma bene. Ne abbiamo avute delle medie in passato, però non ci possiamo lamentare, non è in Abruzzo. No. È un po' già da pescarese, poi magari Verratti come lo vedi in nazionale? Il più grande talento? Verratti è un po' il simbolo abruzzese del calcio, anche se poi ne abbiamo diversi, abbiamo Oddo, abbiamo Di Francesco, un grande allenatore, però come calciatore oggi come oggi abbiamo Verratti che purtroppo ci sta mancando in questo momento in nazionale. Adesso Pescara, mettendoli insieme, c'è ovviamente anche Fabio Grosso. Pescara ha dato tanto. Guarda, anche De Luca annuisce. Chi lo vince sto mondiale invece di Formula 1? Lo vince. No, diccelo tu, Pierluigi. Sei stato con Hamilton un'ora, con Rosberg un'ora e mezza. Secondo te chi lo vince? Non lo so, io credo che i Mercedes sarebbero felici, penso da fuori, non so niente, sarebbero felici insomma, di vedere vincere Rosberg, perché sarebbe un momento storico. No, ma quando, dici De Luca? No, ho sbagliato. Allora, sarebbero contenti di vedere vincere Hamilton, sì. Chi sarebbero contenti di aver vincere? Lo chiedo a voi, Jarno. Ma la Mercedes vincerà comunque, quindi a loro non importa chi va a vincere. Io ho sempre sostenuto il fatto che comunque Hamilton ha un talento superiore rispetto a Rosberg, anche se bisogna ammettere che Rosberg è un grande professionista, perché riesce a tirare il meglio fuori da se stesso e dalla macchina in ogni condizione, riesce sempre a approfittarne. Invece Hamilton è più incostante, è quello che un po' lo penalizza, però Hamilton ha più talento, quindi sarà una lotta fino alla fine e se vincerà Rosberg sarà meritato, ma sarà sicuramente un motivo per dire che Hamilton lo ha regalato a Rosberg. Sì. Leo, Ieri è partito male il Moro, non era in uno dei suoi giorni di grazia. Tanto allora, che a Toto Wolff è partito uno Scheisse che non ha bisogno di traduzioni, però ha visto tutto il mondo. Che neanche la Merkel la sera dopo il risultato elettorale ha detto uno Scheisse così. Ma voi sapete come dicevano i miei contemporanei latini? Quandoque Homerus dormitat, anche Omero talvolta sonnecchia, no? Sì. Ecco, Hamilton quest'anno la cosa, devo dire, sorprendente in negativo è che spesso dopo aver ottenuto il sabato le pole position ha buttato via proprio la corsa, dando un'impressione, insomma, sembrava un mio vecchio zio in pensione attempato. Anche ieri a Monza, cioè alla prima curva era sesto e il sabato aveva dato mezzo secondo a Rosberg. Tra l'altro, lo dico per i puristi come Pardo, no? Sì. Hamilton in più della metà delle occasioni in carriera nelle quali è partito dalla pole position non ha vinto, cioè l'opposto di quello che erano Schumi, Vettel quando stava in Red Bull, che poteva fare le pole, non con noi in Ferrari, naturalmente Ayrton, che quando mettevano la macchina davanti al sabato poi la domenica non c'era per nessuno. Lui da questo punto di vista è un po' strano, però io continuo a pensare che il titolo lo vincerà lui. Anch'io. Perché Rosberg è buonissimo, quest'anno secondo me sta sfoggiando anche una maturità, una solidità che in passato talvolta gli era mancata, però alla fine della fiera se li metti lì io penso che il nero abbia quello zic in più, hai capito? Sì. Quella cosa nel DNA, però sarà molto bello perché 7 gare, 2 punti di differenza, può accadere di tutto. Posso dire una roba a proposito di Bolt in tema di campionissimi? Sì. La voglio proprio dire, quando stavo a Rio la sera che ho fatto l'ennesimo triplete riesco a appurare dove festeggerà e mi presento in questo luogo molto sfarzoso a zona Capacabana, all'ingresso c'è una guardia del corpo tutta insomma con pistole eccetera e mi dice lei, io dico giornalista italiano Bolt, questo mi guarda e fa solo Pardo, perché solo Pardo è ammesso sul carro dei vincitori. Sei zizzero, ascoltami, dicono che mai smascherà. Ma non lo so, Pardo, guarda un po', la rivedi tu sempre con i vincenti. Ma che coi vincenti? Ma che coi vincenti? Senti, fatemi chiedere a Jarno Trulli un'ultima cosa: se basteranno questi. Il cambio regolamentare e un inverno di lavoro, non ti dico per veder vincere la Ferrari, ma per vedere qualcosa di nuovo nella Formula 1. Ma guarda, io sto seguendo un pochino la Formula 1, mi sono riaffacciato sabato, tra l'altro ho visto Leo da lontano, ma anche lui stava parlando, io ero sommerso dai vari amici e giornalisti. Mi sono reso conto che alla fine, oggi come oggi, la Formula 1 è cambiata tantissimo. È quello che oggi chiamano power unit, che poi una volta era il motore, conta molto di più di una volta. Nel senso che in passato il power unit, un motore, contava, non so, per un 30%. Quello che contava era l'aerodinamica della macchina. Oggi l'aerodinamica della macchina conta sempre, però... mi sembra di capire che la power unit può fare una grandissima differenza perché rappresenta un insieme di elettronica, meccanica, ingegneria che risulta oggi difficilissima da capire e che poi, a dire la verità, non servirà poi mai a nessuno questa tecnologia, quindi anche la trovo anche un po' eccessiva da metterla in Formula 1. Quindi con il nuovo regolamento non so quanto si cambierà, perché è vero che le macchine saranno completamente diverse a livello aerodinamico, meccanico, gomme più larghe, quindi un drag per facilitare i sorpassi, però alla fine torneremo a vedere comunque le stesse power unit. Ora, a meno che la Ferrari, Renault, Honda si aggiorneranno e faranno un grosso passo avanti, a me sembra di capire che comunque la Mercedes abbia... un bel margine in questo momento, troppo margine per essere colmato in un'estate in un cambio di regolamenti. Grazie Jarno, a presto, ti aspettiamo. Ciao. Per un bicchiere. Ti aspettiamo. Volentieri. Buona giornata. Che c'hai? Che è pecorino? Che produci? Sì, abbiamo un po' di tutto. Abbiamo passerina. Il pecorino, poi passerina, Montepulciano d'Abruzzo è comunque ben conosciuto, il Trebbiano, insomma, essendo produttore abruzzese devo comunque proporre vino abruzzese. Vabbè, ti aspettiamo al Vinitali. che tu sai che è l'appuntamento volentieri, come tutti gli anni di tutta la stagione di tutti i convocati, è un po' l'appuntamento clou. Cioè noi stiamo già preparando il Vinitaly che è aprile, marzo, sì, aprile, siamo già pronti, però siamo già in clima, capito? È un po' come la finale di Davis o Monza, ecco, o Monza, o Monza, come direbbe il nostro, per la grande Formula 1 vecchio. Allora Leo, ci vediamo dopo a Formigine al bar. E io ti aspetto, se tu, ripeto, ti degni di frequentare anche gli ambienti più umili. Ma figurati, io sono il noso in questo momento, ti dico, ti fa, ecco, faccio torno da Haifa e successivamente ci vediamo dal Formigine. Ciao, davanti Leo. All'autoscuola. Siete formidabili, aspetto anche te, compardo. Ma certo, andiamo, ma magari. Ma si può fare qualcosa, si può visitare. Io sono tipo. Andiamo. Dobbiamo chiudere. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domani. Ciao. Noi invece torniamo dopo il GR. State lì, dobbiamo parlare di moto, Valentino Rossi, Marquez, eccetera. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Ancora il testa a testa tra Rossi e Vignales per questa staccata con Vignales che la butta dentro come se non ci fosse un domani. Te ne dai, mamma, che porta! Mamma! Attenzione, rientro! Il rientro della moto, mamma mia, speriamo non si siano fatti niente. Fortuna. Che brutta botta. Fermate la gara. Ci sono troppi detriti. Fermate la gara, mamma subito, mia, che botta. Subito. Voltati Maverick, c'è il vuoto dietro di te, tutti in piedi sul divano per Maverick Vignales. Vignales c'è e vince il Gran Premio di Inghilterra, produce la sua prima vittoria in MotoGP, produce la prima vittoria della Suzuki della nuova era. È stata una grandissima gara dove ha regnato l'ignoranza e sono molto contento, perché di solito no, noi lo diciamo sempre a Bullega, no? Che quando lui è in moto delle volte guida lui, delle volte guida l'ignorante, capito? Allora oggi ce l'avevo l'ignorante con me in moto, però è stata una bella lotta. Sapevo che per cercare di fare il podio dovevo dare il massimo dalla prima all'ultima curva e infatti così è stato. Questo riassunto di quello che abbiamo visto ieri a Silverstone in una corsa bellissima e per un motomondiale che è diventato bellissimo perché Marquez continua a guidare la classifica, Lorenzo è scomparso nel Stabile Mobili, ma ad ogni Gran Premio nasce un nuovo fiore. The Voice del motomondiale per noi, Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Anche ieri possiamo dire è nata una stella, quella di Maverick Vignales, che ha guidato in solitaria dall'inizio alla fine come alla Valentino Rossi. È quello che stupisce Carlo, perché lui è un rookie della vittoria, ieri la sua prima, ma ha vinto da pilota navigato, esperto, ha preso ed è andato via con distacco, aveva 4 secondi e si è tenuto quel distacco fino alla fine. Quando la prima vittoria arriva sempre un po' così per il rotto della cuffia, piuttosto che quella lì è una vittoria invece importante, fatta da un pilota appunto con esperienza, che gestisce la corsa, che ne ha talmente tanto di più, che riesce a mantenere e gestire. È quello che sorprende, lo sapevamo che Maverick fosse un grande talento, io sinceramente non pensavo che arrivasse alla vittoria così in fretta, perché è partito col progetto da zero, con la Suzuki, e questo è interessante da chiedere a Davide Brivio, perché è stato veramente un'incognita in partenza, però poi ha convinto strada facendo, e adesso non si tratta più di un gioco a tre tra Honda, Yamaha e Ducati, ma c'è anche la Suzuki. Poi lo chiediamo a Davide Brivio, intanto chiediamo a Lucio Cecchinello, che è il grande protagonista di questa fase del motomondiale con Carl Crutchlow, perché c'è anche lui lì, no? C'è anche Crutchlow, c'è anche questa... La sua Honda, c'è anche un momento in cui il pilota inglese che ha sofferto tantissimo alla Ducati adesso è tornato a ruggire. Ciao Lucio. Ciao a tutti. Ciao Lucio. Ciao. Vai Roby, comincia tu. Senti Lucio, si è sbloccato Cal, ma cos'è successo per sbloccarsi così? Perché è sempre andato forte, ma adesso è una conferma. Lucio, tu che lo conosci bene, sei sempre al suo fianco. Guarda, sono successe una serie di cose, la prima che abbiamo pian piano risolto i problemi che affliggevano di più la Honda, siamo riusciti a soddisfare un po' le richieste di Cal di rendere la moto più guidabile rispetto alle sue, esigenze e il suo stile, e soprattutto, a mio avviso, lui pian piano si è convinto che ha le potenzialità anche su questa moto, come peraltro le aveva quando ha guidato la Yamaha nel 2013, facendo delle gare stupende, facendo vedere chi era Cal. Grande combattente, Cal, questo è sempre stato. Il challenge adesso è tuo, perché hai tra le mani un patrimonio, perché Cal, dal punto di vista umano, è strepitoso, è di un'istintività, di un'ironia, una persona che si rimbocca sempre le mani. E lui, cioè, dopo Valentino, permettetemi di dirlo, ma è la persona più simpatica, quello che riesce a interagire col grande pubblico nel modo migliore. È inglese, quello è vero, ma e qui lo dico per noi italiani, ma se gli italiani sapessero qual è il vero Cal, impazzirebbero, perché è veramente, è vero Lucio? È vero, guarda, sono d'accordo, nel senso che è un personaggio straordinario, ha un gran cuore, è una persona veramente, veramente speciale, noi tutti ci troviamo molto bene, e non riesco a capire come in passato, quando abbiamo preso Cal, qualcuno nel paddock che aveva lavorato con lui, più di una persona mi dicevano: ah, vedrai che non sarà per niente facile gestirlo. Invece ti dico, è una persona eccezionale. Poi adesso devo dire che a mio avviso ha anche raggiunto quella maturità e anche quella stabilità emotiva grazie a Lucy, e adesso più recentemente con la nascita di Willow, della figlia. Devo dire che è un gran personaggio, non gli si può altro che volere del bene. Si vede che la figlia non gli ha dato un secondo in più, ma gliel'ha tolto. È vero, no? Sì, di solito i piloti si dice il contrario. Esatto, e comunque quel suo carattere che ti dicevano è proprio la sua spontaneità, è quel suo non avere filtri, dire le cose, ma è rimasto un appassionato comune, con una passione smisurata, e quello lo rende molto unico, perché non fa la prima donna. Guarda, è una persona strepitosa. Roberto, volevo chiedere a Lucio Cecchinello, volevo fare una domanda tecnica, mentre ci arrivano diversi messaggi, a proposito, se volete parlare con noi 800 24 00 24, siete sempre convocati su ogni argomento. Matteo da Cernusco: sono tifosissimo di Vale, ma volevo fare i complimenti a Vinales, Crashero, Marquez e lo stesso Rossi per lo spettacolo che ci hanno regalato, e aspettiamo tra una settimana, solo tra una settimana, Misano, dove saranno fuochi d'artificio. Lucio, ieri ho visto Marquez, oltre che molto combattivo, io e Roberto scherziamo spesso su questo, sta vincendo un campionato da ragioniere, quindi con uno stile diverso rispetto ai primi vinti da Marquez, però ieri l'ho visto davvero in difficoltà, soprattutto sul dritto, su una moto che faceva fatica, nonostante lui abbia questa guida particolare, a tenere anche sul dritto. La moto di Carla era un compasso. Ma guarda, lo stile di guida di Mark è molto particolare, lui frena tantissimo sotto le curve, per poi dopo penalizzare un po' l'uscita di curva. Sappiamo benissimo che se tu arrivi impiccato in frenata, poi dopo il momento in cui vai ad aprire il gas è leggermente ritardato, e la forza di Mark è proprio quella di riuscire a fare delle gran staccate. Il problema è che questo tipo di guida poi lo costringe ad avere dei telai molto rigidi, delle sospensioni anteriori molto rigide, e in uscita di curva, ripeto, lui perde qualche cosina, e soprattutto nei circuiti tipo magari anche Silverstone, dove ci sono delle curve, l'uscita di curve strette che mettono su dei rettilinei abbastanza lunghi, lì perdeva un pochino la sua moto, ma in realtà tutte le Honda quest'anno non sono estremamente veloci. In realtà abbiamo un motore che manca un po' di prestazione massima, ma perché? Perché la richiesta specifica dei piloti era quello di rendere il motore più guidabile, e adesso però effettivamente si è passati di là, perché la concorrenza tipo Ducati ha fatto un motore guidabile e anche velocissimo sul dritto, quindi la Honda lavorerà su questo nei prossimi Gran Premi. Mark ritengo che comunque il risultato di ieri sia stato anche influenzato dal fatto che aveva la gomma anteriore morbida, diciamo, l'opzione più morbida, sì, delle opzioni disponibili, e forse questo l'ha un po' penalizzato. Sì, poi non siamo abituati a vederlo andare dritto un paio di volte, Robin. Quello che aggiungo io è che se vogliamo vedere qual è il livello della onda, dobbiamo riferirci a Pedrosa, è quello il, sì, vero livello, no, della, no, onda, l'abbiamo sempre perché detto. Marquez è lui sopra i problemi. Questo a maggior ragione fa capire il valore di Cal, perché con una moto ufficiale ieri ha veramente battagliato ed è stato davanti a una moto ufficiale, anche con una moto semi-ufficiale. Quindi questo dà ancora più valore a Cal. E io dico a Lucio che te lo meriti, perché hai seminato tanto per avere questa soddisfazione. Quindi te la meriti tutta ed è solo l'inizio. Ce l'ha confermato ieri Cal, che non è stato un fuoco di paglia quando era andato a vincere là, nella penultima gara. Ieri invece ce l'ha confermato e speriamo che sia solo l'inizio questo. Lucio, un'ultima cosa, in chiave mondiale. Innanzitutto ti chiedo cosa può succedere a Misano. Prima dicevo scintille, ovviamente voi adesso siete on fire da questo punto di vista. Marquez vuole chiudere il mondiale, Lorenzo lo diamo per perso per motivi suoi misteriosi che possiamo immaginare, visto che lo conosciamo bene, soprattutto tu e Roberto Ungaro. 210 a 160, ieri Rossi ha riaperto una porticina oppure no? Guarda, in realtà abbiamo visto anche in passato mondiali ribaltarsi quando a metà stagione o inoltrata erano apparentemente vinti. Io credo che, a parte che il fatto che mancano ancora diverse gare, ma credo che in particolare quest'anno con delle Michelin che sicuramente stanno migliorando, ma sono ancora delle gomme che non garantiscono mai il 100% del feedback al pilota, potremmo vedere un Marquez che si ritrova a terra in un gran premio ed un Valentino che ne approfitta e che in un colpo solo dimezza le distanze. E quando le distanze si dimezzano, sappiamo bene che la tensione nervosa del leader è sempre superiore rispetto alla tensione nervosa dell'inseguitore. Certo. Quindi secondo me il mondiale è aperto. Secondo me il mondiale è aperto. Grazie Lucio, in bocca al lupo. Grazie a voi, Lucio. Grazie della chiamata. Ciao. Grazie a Luca Cecchinello, che con Car Crash è arrivato ieri secondo. Vi faccio sentire Vignales, vincitore a Silverstone. No, alla fine Silverstone è sempre stato una pista dove mi sono trovato molto bene. Già l'anno scorso abbiamo fatto un bel passo con la Suzuki dell'anno scorso e quest'anno dal primo giorno mi sono trovato molto bene, molto veloce e non era difficile fare il passo, quindi contentissimo e davvero ringraziare il team che dal venerdì ha fatto un lavoro incredibile. Dunque, Roberto Ungaro, cosa volevi chiedere al boss della Suzuki, Davide Brivio? Io a Davide chiederei se mai si fosse immaginato di arrivare alla prima vittoria in così poco tempo, partendo da un foglio bianco, perché tutti sanno il suo valore, ha costruito il successo di Valentino, ma partire con un marchio giapponese come Suzuki che deve riscrivere su un foglio bianco il progetto e una rookie, perché è un pilota che è debuttante in quella classe. Ragazzi, chapeau a Davide Brivio. Eccolo qua. Ciao Davide. Ciao a tutti, grazie, siete gentili, grazie. Ciao Davide, questo sono i fatti e l'evidenza. Cosa mi dici allora? Avresti pensato in così poco tempo? Di la verità, sii sincero. No, a dire la verità io non ho mai pensato, mi hanno chiesto la stessa cosa quando abbiamo conquistato il podio, fatto terzo in Francia, Le Mans a maggio. E adesso io onestamente non ho mai pensato ad un obiettivo, a dire faremo un podio, faremo una vittoria. Ho sempre cercato di così, non so, lavorare gara per gara e vedere un po' dove si poteva arrivare. Devo dire che alla vigilia di questa gara ho letto le dichiarazioni di Maveri che diceva che sarebbe venuto a Silverstone a lottare per la vittoria. Mi sembrava un po' esagerato, invece aveva ragione lui. E forse, ecco, non ho mai pensato a quando avremmo potuto vincere una gara, però sono sincero, non pensavo così presto. Pensavo che quest'anno magari avremmo provato a fare un altro podio, così, però la vittoria, sai, la MotoGP è un ambiente altamente competitivo, ci sono delle case Honda e Yamaha sempre presenti, la Ducati che da anni e anni inseguiva una vittoria, l'appena conquistata, però dopo parecchio tempo, piloti fortissimi, per cui sai, è difficile anche dire vinciamo una gara, no? Cavoli, come faccio? Bartlett, Valentino, Lorenzo, le Ducati, cioè, che miseria. Se va bene facciamo quinto, no? Insomma, per cui... E però c'è, cioè, Davide, c'è anche Roberto che ci sta spiegando come alla fine c'è anche un fuoriclasse su una moto che sta andando molto forte. Certo, sì, cioè, Davide ha vinto con margine e costanza, quello ha stupito, cioè ha vinto, sì, da pilota navigato, la prima vittoria arriva sempre, sai, un po' più sotto la cuffia piuttosto, invece lui sembrava un pilota esperto, proprio un pilota consumato che ha gestito questo margine, è incredibile, ha preso e se n'è andato. Sì, sì, lui, vabbè, che è un grande talento, si sa. Fra l'altro devo dire che già in Argentina, quando è caduto, che era terzo dietro Valentino, già in Argentina, ecco, lui era molto arrabbiato perché aveva detto che lui un errore così non l'aveva mai fatto in vita sua, nel senso di era in controllo, stava aspettando il finale della gara per attaccare Valentino, ha fatto una scivolata stupida. E era molto arrabbiato con se stesso perché appunto è uno abituato a che sa gestire le situazioni, che ha abbastanza sotto controllo la situazione, eccetera. E ieri lo ha ampiamente dimostrato. Devo dire che insomma siamo riusciti per fortuna la squadra è riuscita a trovare una buona messa a punto ed è bastato tra virgolette metterlo in condizioni di poter guidare bene la moto come voleva lui, e poi ha tirato fuori questa grande impresa con grande naturalezza. È vero, sembrava un pilota navigato, sembra uno che lo fa, che l'ha già fatto chissà quante volte, no? Perché c'è stata la prima partenza, purtroppo poi per quell'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è stata interrotta. Ecco, la prima partenza eravamo già davanti con più di mezzo secondo dopo mezzo giro ed è stata interrotta la gara. Ecco, una volta che partiamo bene, no? Figuriamoci. E invece poi nella seconda ripartenza ha fatto ancora meglio, perché non è partito così bene, diciamo, è rimasto leggermente là, ma ha fatto un sorpasso a Valentino bellissimo, e poi se n'è andato con grande naturalezza, devo dire. Quindi ci fa ancora molto piacere, ancora più piacere che è una vittoria pulita, netta, non agevolata da niente, da nessuno. Ma non ci ha regalato niente nessuno. Questo è sicuro. Questo è sicuro. E tra l'altro, Roberto Ungaro, dietro quello che ieri è caduto, insomma, aveva problemi fisici. C'è, cioè, Andrea Annone, che sarà il prossimo pilota di questo Davide, volevo chiedere. Insieme a Rins, erano lì dietro, Davide, staccati, che si leccavano esatto, i gomiti. Cosa dici, Roby? Davide, se ieri fosse stata l'ultima gara, immaginiamo che si chiuda il campionato, tu lascerai un pilota che si è sbloccato con la vittoria e ne prendi uno che si è sbloccato con la sua prima vittoria. Questo sono i presupposti per una storia che andrà avanti, e questo è anche un augurio. Cos'è mancato, Davide, per tenere quel pilota che si chiama Vignales? Ma tutto e niente, nel senso che la Yamaha ha offerto di sostituire Lorenzo e lui, lo dico con soddisfazione, ci ha pensato molto. Ecco, il fatto che lui abbia passato un mese o due di grande indecisione per pensare cosa avrebbe dovuto fare, se sarebbe stato meglio, se fosse stato meglio andare a Yamaha oppure rimanere in Suzuki, eccetera, questo ci ha reso anche molto orgoglioso da un lato, perché è un progetto così nuovo. Sai, ti offro una Yamaha e tu ci pensi prima di lasciarlo, vuol dire che qualcosa di buono c'è, no? Avevamo come team, come moto. Beh, lui l'ha sempre detto, d'altra parte. Vignales l'ha sempre detto. No, Vignales l'ha sempre detto questo. Allora, sì, lui era molto indeciso. Poi sono quelle cose che sai, tu non puoi continuare a pensarci interno. La mattina dici, dai, vabbè, faccio così, punto, no? E poi cerchi di non pensarci più. E poi sono sicuro che almeno ognuno di noi, quando prendi una decisione, poi intanto ti viene il dubbio, sarà giusta, non sarà giusta, magari se lo sta chiedendo anche lui, ma allora secondo me, e gliel'ho detto anche dopo che lui, diciamo, ce l'ha detto, secondo me è giusto che lui ora vada in Yamaha, nel senso che se aveva, se lui aveva tutti questi dubbi, giusto rimanere, giusto andare, giusto rimanere, giusto andare, e avesse deciso di rimanere in Suzuki, alle prime difficoltà si sarebbe magari pentito, avrebbe pensato, ah, forse ho sbagliato, avrei dovuto andare via, eccetera, eccetera. Invece così, diciamo, si leverà il dubbio. Certo, certo, e, certo. Ma questo, ovviamente, adesso, sai, sono passati dei mesi, abbiamo un pochino metabolizzato questa scelta, è chiaro che ci siamo rimasti male, lì per lì, mi è dispiaciuto molto, perché era un progetto nato con lui e sarebbe stato bello coronarlo con un grandissimo traguardo insieme, perché siamo partiti insieme, lui rookie, noi rookie, eccetera, eccetera. Avrebbe avuto un significato particolare. Però questo è lo sport, questa è la vita. Lui ha preso la sua decisione. Questo successo di ieri, secondo me, ci legherà un po' per sempre, no? Nel senso che non ho dubbi. La sua prima vittoria in MotoGP è venuta con la Suzuki, la nostra prima vittoria, diciamo, dopo il rientro, è venuta con lui, quindi questo rimarrà nella memoria di entrambi. Questo sì. E poi l'anno prossimo diviamo pagina, e sono molto contento di come l'affronteremo con la formazione dei piloti che siamo riusciti a comporre, quindi niente, cioè, col sorriso e con grande sportività cercheremo di batterlo. E certamente, come si deve fare. Un talento come abbiamo fatto lì, con grandissimo rispetto e assolutamente consapevoli del talento che è. Questo è chiaro. Penso che questo è chiaro. Nell'arco di 2-3 anni, ma già dall'anno prossimo, 2-3 anni, insomma, nei primi 3-4 ci sarà più. Sì, potrà essere competitivo per il mondiale. Grazie Davide, un abbraccio. Grazie, e complimenti ancora a Davide Brivio, alla Suzuki e a Maverick Viñales. Complimenti anche a Roberto Ungaro, come sempre. Ci sentiamo, caro, tra pochissimo. Siamo già qui all'alba di Misano, che sarà un gran premio meraviglioso, terrificante, crudele, forse decisivo. Ciao Roby, alla prossima. Ciao Roberto Ungaro. Facciamo appena in tempo a parlare con Carlo da Trieste, poi dobbiamo chiudere questa puntate di Tutti Convocati, ma tanto domani siamo di nuovo qui, dalle 14 alle 15.30. Carlo? Grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Il cenno mio era su Pavoletti, centravanti della Nazionale, perché a mio parere uno che ha fatto 14 gol l'anno scorso, maggior realizzatore italiano, senza rigori, è uno che due domeniche fa ha fatto una doppietta, sa di destra, di testa, di sinistro, per il gioco di Ventura, messo, ricordandoci quello del Torino, si adatta molto bene, perché al limite ti fa salire la squadra, di testa le difende tutte. Il fatto di essere una squadra relativamente non importante, però, vuole anche dire riuscire ad approfittare dei cross di Lazovic e non di quelli di Khedira e cose varie. Sì, no, Carlo, lei ha ragione, ma io credo che Pavoletti sia uno dei nomi sul taccuino di Ventura. Adesso attendiamo conferme, perché come ricordava è reduce da una eccellente stagione, quella passata nel Genoa, tanto che si è parlato di lui come possibile azzurro per gli europei. A me sembrava un po' presto, vediamo se si conferma. Secondo me dopo il 6 ottobre, l'appuntamento con la Spagna, cominceremo a capire meglio le scelte di Ventura. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falsoni in redazione. Ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 2. Ci vediamo domani, enjoy!